Allora, innanzitutto per me è un piacere essere qua, come ho detto altre volte, questa è, bene o male, la mia patria, io, tutta la mia famiglia viene da Amola, San Giovanni in Persiceto, quindi anche se io sono nato a Bologna, però mio padre è nato qua, e quindi insomma è un po' come ritornare a casa. E qual è l'aspetto che secondo me, darò qualche spunto che ritengo che sia importante, di riflessione, perché è ovvio che in una serata non si può fare una lezione di etologia sul cane e sul gatto, però qualche spunto secondo me è di riflessione, è importante. E partirò dal concetto di valore della relazione, perché noi spesso diciamo, è importante valorizzare la relazione, è importante la relazione come valore. Io penso che noi dobbiamo riflettere su questi due aspetti, cioè cosa significa valorizzare e cosa significa relazione, perché se li diamo molto spesso per scontati. Valorizzare innanzitutto significa avere piena consapevolezza di un valore che non è esclusivamente, non è un valore ecologico, un valore economico, un valore di fruizione, perché sento spesso dire gli animali d'affezione, da compagnia, questa idea, no? Che il cane, il gatto è importante perché ci dà affetto, ci dà compagnia. Parlare di valore significa avere consapevolezza di quanti sono gli aspetti di questa relazione, di quanti sono gli ambiti, di quanto è l'arricchimento che l'uomo riceve da questa relazione. E quindi un arricchimento che va al di là di quello che è un utilizzo dell'animale da compagnia, da affezione, o una visione estremamente chiusa, cioè con gli animali mi danno tanto amore, mi danno tanto compagnia. Ecco, questa è una svalutazione. Non voglio dire che gli animali non diano amore, non diano compagnia, voglio dire che gli animali sono molto di più. Sarebbe come dire il mio amico da compagnia, la mia fidanzata da amore, insomma... sono certo che il mio amico e la mia fidanzata si incazzerebbero se io li trattassi in questo modo, perché il valore significa qualcosa di molto più importante. Significa che questa relazione è una relazione che in qualche modo si sviluppa su tutta la mia identità. Cioè una famiglia dove è presente un cane e un gatto, cioè non puoi dire è la compagnia, è l'amore, sono tanti gli aspetti, è il bambino che riceve degli stimoli educativi incredibili. Noi sappiamo che i bambini che crescono con degli animali hanno delle marce in più su tanti aspetti, sulla capacità di percepire e valorizzare la diversità, sulla capacità di comunicare, sulla capacità di conoscere il proprio corpo, su un maggiore rapporto col mondo della natura. Quindi l'anziano che vive con l'animale non è solo l'amore e la compagnia, sono tanti aspetti che entrano in gioco. Quindi quando parliamo di valore dobbiamo parlare di qualcosa di profondo, non di qualcosa di performativo, non è una prestazione che ci danno gli animali, ma è qualcosa che ha a che fare con la nostra identità, con la nostra vita. Altra cosa, il valore di una relazione. Molte persone pensano che le relazioni vengano tenute insieme se si va d'accordo. Cioè, quando andiamo d'accordo, stiamo insieme. Non è vero. Non è il fatto di andare d'accordo che tiene insieme, ma quando tu ritieni che l'altro sia importante. Cioè, le relazioni, se tu vedi, ci sono delle persone che vanno perfettamente d'accordo e si lasciano, e ci sono persone che litigano dalla mattina alla sera, ma stanno sempre insieme. Qual è la differenza? È l'investimento che noi facciamo nella relazione, cioè quanto valore gli attribuiamo, quanto impegno rispetto proprio alla nostra vita mettiamo in questa relazione. Quindi il valore di una relazione è qualcosa che trascende il semplice quello che ricevo, ma anche e soprattutto quello che io dono, quello che io do. Cioè il valore della relazione è un atto di amore, un atto di dono, non è semplicemente un calcolo per cui io ricevo qualche cosa. Terzo aspetto del valore della relazione è che se io ritengo qualcosa importante, ritengo che questa sua importanza si rifletta su tutti gli ambiti. Io non ne posso più di sentire che, insomma, gli animalisti sono quelli che si occupano degli animali. Come se ad un certo momento questa relazione con gli animali fosse chiusa in se stesso. Non è così. Cioè, la nostra relazione con gli animali si riflette su tutti gli aspetti. Una società è molto più forte, molto più solidale, è molto più aperta se ha imparato il valore della relazione con gli animali. Quindi, capite, non si chiude in se stesso. Cioè, quando sento parlare, ma ci sono ben altre le cose importanti, no? C'è questa idea sempre del benaltrismo, sì, però sono altre le cose importanti. Oppure ti si viene detto: ma se l'uomo non è capace neanche di rispettare il proprio prossimo, com'è possibile che possa rispettare gli animali? Bene, io ti dico che è molto più facile che l'uomo arrivi a rispettare il proprio prossimo umano imparando ad amare gli animali piuttosto che il contrario, perché sul maltrattamento degli animali si giocano tutti gli archetipi di segregazione, di emarginazione, di maltrattamento del prossimo umano, quindi non sono due cose che sono in contrasto l'uno con l'altro. Il valore di una relazione significa anche impegno, cioè non dare qualcosa per scontato e quindi impegnarsi. E poi parliamo di relazione. Relazione non è interazione. Relazione significa scambiarsi qualche cosa, assumere un ruolo per l'altro, cosa sono io per te, cosa sei tu per me. E significa aprirsi, aprire questo ruolo, permettere tante situazioni di dialogo. Quindi chi vede nel proprio cane o nel proprio gatto unicamente un figlio, non ha aperto la propria relazione. Questo non significa che sia sbagliato avere anche un atteggiamento genitoriale, dico solo che il tuo cane non può essere il tuo figlio, deve essere anche, semmai, un'entità a cui dai affetto parentale, ma deve essere il tuo compagno di gioco, il tuo compagno di vita, il tuo compagno di convivenza, non può essere esclusivamente qualcosa. Quindi una relazione significa aprire la porta della reciprocazione, aprire la porta dell'interscambio. C'è un altro aspetto fondamentale della relazione che secondo me è importante. Parleremo sicuramente del fatto che gli sbagli maggiori che noi possiamo fare della relazione è quello di considerare l'animale un oggetto e quindi non prendere in considerazione il fatto che è un soggetto, e quindi trattarlo come trattiamo qualunque cosa, che possiamo anche trattarla bene, possiamo anche trattare benissimo la macchina, non nel mio caso perché la tratto malissimo, ma vedo delle persone che adorano la macchina, no? A proposito di adorare, non ditemi li adoriamo perché già siamo in Natale, questa adorazione uno può anche adorare la macchina, ma è sempre un oggetto, lo considero un oggetto. Quindi il punto non è tanto quanto il punto fondamentale è capire che gli animali noi possiamo anche pensarli come oggetto, ma non perché noi li pensiamo come oggetti, loro si trasformano in oggetti. Un animale è un soggetto, non è un oggetto. Questa è una profonda differenza che c'è tra gli oggetti e i soggetti, è che gli oggetti non hanno desideri, non hanno emozioni. Gli oggetti hanno semplicemente delle capacità, per cui puoi avere anche un computer estremamente capace, ma non aprirà mai Word da solo, non avrà mai voglio assolutamente aprire e andare su Facebook, no, ok? Un oggetto non ha desideri. Questa, invece un animale ha sempre dei desideri, quindi significa che tutte le volte che gli proponi qualcosa devi chiederti, aspetta un attimo, lo desidera anche lui? Perché il punto è questo, questa domanda non te la poni quando hai a che fare con una macchina, ma forse mi si sente? Cosa dite? Vuoi provare così? Non ce l'hai questo problema, tanto non funziona. Aspetta, prova. Non mi interrompo. Scusa. Questa cosa qua non ce l'hai con la macchina, non è che quando vengo alla mia automobile ho detto dai, va là, andiamo a San Giovanni in Persiceto, sarà la nebbia, ma vedrai che è tutto tranquillo. Cioè non hai cercato di ingaggiarla, di motivarla, di emozionarla. Ho semplicemente acceso e andato. E molti si rapportano con gli animali invece come se fossero proprio delle macchine. Quindi, deve fare questo, quindi hai questa idea dell'automatismo, no, animale. L'altro grande problema è quello che è l'antropomorfismo. Perché l'antropomorfismo, guardate, è gravissimo. Perché tu pensi che l'animale non abbia delle sue caratteristiche. Pensi che sia un quasi umano. Cioè una sorta di approssimazione a te. Quelli che dicono, gli manca la parola. Che se fosse un cane o un gatto, dice, va a cagare, ce l'ho la mia parola. Cioè, se tu non capisci la mia lingua, non è che io non ho la parola, no? Perché siamo come i greci che dicevano agli altri che erano barbari perché non avevano il logos, semplicemente perché loro non capivano la lingua dei punici, dei persiani e quant'altro, no? Allora, l'antropomorfizzazione è veramente un maltrattamento grave. Non è che quando tu antropomorfizzi il tuo cane, il tuo gatto, lo stai viziando, tu lo stai maltrattando. Perché tu gli togli le sue caratteristiche, Se tu vuoi assolutamente, dico sempre, come se le aquile mi prendessero, dice, noi ci divertiamo a buttarci giù dai dirupi, e mi buttassero giù da un dirupo. Dico, io non mi diverto per niente. Cioè, questa visione proiettiva è assolutamente sbagliata. Ma la stragrande maggioranza delle persone, vedete, non è che non sa di non sapere. Cioè, non si pone minimamente il dubbio, aspetta un attimo, forse io non so cosa significa vivere con un gatto, vivere con un cane, no? No, no, lo sanno già. E questo è il grande problema, no? Che nasce da una visione di banalizzazione. Cioè, certamente avrebbero molto più attenzione se invece di un cane o di un gatto avessero di fronte, che ne so, un neutrino, un bosone. Cioè, c'è un neutrino, aspetta che vado a informarmi che cos'è. Invece il cane e il gatto lo dai per scontato. E quindi vediamo questi maltrattamenti che sono legati al fatto, sono striscianti, sono nascosti, non si vedono molto spesso, perché magari tu riempi di come quelli che danno il cioccolato al cane, dice ma è buono il cioccolato, dai il cioccolato al cane, così gli piace anche a lui. E questo non ci rendiamo conto delle differenze. Le differenze sono fondamentali, per conoscerle bisogna avere questa umiltà socratica e dire aspetta un attimo, so di non sapere. Ma la relazione ha anche un altro aspetto che secondo me è fondamentale, è che non basta sapere tutto di cane o di gatto e non basta nemmeno avere una concezione di soggettività. Vi dirò, io ho iniziato tanti anni fa quando facevo medicina veterinaria, che a quel tempo era in centro di Bologna e poi adesso l'hanno portata chissà dove, e quindi potevo sfuggire ogni tanto, finite le lezioni, andavo da Giorgio Celli, che è stato il mio grande maestro, insomma io ho vissuto tanto tempo con lui e lo ricordo sempre volentieri, perché è un personaggio fantastico, con una pazienza incredibile, cioè nel senso che lui stava lì delle ore ad ascoltarmi, no? Poi magari si incazzava, perché Giorgio Celli si incazzava, però era sempre, come dire, sempre aperto, sempre disponibile, e questo mi ha insegnato veramente tanto. Io ho la passione degli insetti, E in particolare delle vespe. Dicevo, come ti piace? Mi piace andare a morire le vespe, io ho una passione per le vespe. Guardavo questi favi, no? Avete presente un favo? Tu lo guardi da lontano, le cellette ti sembrano tutte uguali, tutte perfettamente esagonali e sono tutte identiche. Poi quando vai a vederle invece da vicino, vedi che ogni celletta è diversa, che ogni celletta è imperfetta. Non è l'esagono che tu ti immagini, che vedi da lontano. Quindi la lontananza porta a un appiattimento di prospettiva, cioè porta a non vedere le differenze individuali, la singolarità. Allora non esiste la categoria gatto, la categoria cane, esistono gli individui cani e gli individui gatti, esattamente come le cellette del favo. L'appiattimento nasce dal fatto che noi, anche se viviamo vicini ai cani e ai gatti, in realtà questi animali sono lontanissimi da noi. Sono lontani perché hanno profili comportamentali diversi, perché ci sono milioni e milioni di anni di lontananza filogenetica da loro. Quindi dovremmo avere una maggiore capacità di, come dire, sospensione del giudizio, di capire che non esistono le categorie, esistono gli individui. Cioè che non esiste la categoria gatto, esistono i gatti. Non esiste la categoria cane, esistono i cani. Questo è quello che ci ha insegnato Darwin. Darwin si è opposto principalmente al concetto essenzialistico del platonico, dell'idea del gatto, di cui tutti i gatti sarebbero la brutta copia. Darwin ci dice invece esiste la popolazione e diciamo che qualunque estrapolazione categoriale io la faccio dalla popolazione. Capite? Noi dovremmo avere e accettare questa singolarità, l'individualità, perché chi ha avuto degli animali, chi ha vissuto con un cane o con un gatto, ne ha avuti più di uno, si renderà conto che sono tutti diversi, che hanno tutte le loro caratteristiche, che sono degli individui, sono delle entità singolari, uniche e irripetibili. Cosa facciamo? Io amo la tecnologia, è una cosa proprio bene. Io e la tecnologia andiamo d'accordo, riesco ad andare d'accordo, ma davvero, più con le vespe che con la... Cioè io sono riuscito, non riesco a parlare a un microfono e difficilmente riesco a farmi... Però tendenzialmente io sono riuscito ad avvicinare, a prendere un nido di calabroni tra le mani, capite? E però davanti a un microfono sono finito. Allora, quello che vorrei dirvi in questo momento è che noi dovremmo avere una maggiore capacità di guardare questa relazione con maggiore umiltà, maggiore interesse, maggiore impegno, maggiore capacità di valorizzarla. E mi dispiace vedere che invece viviamo in una società dove gli animali sono sempre più svalutati. Cioè, quando mi telefona qualche... adesso lei c'è la giornalista, non vorrei offendere i giornalisti, però tutte le volte che mi dicono facciamo un'intervista, io sono terrorizzato, io non vado più in televisione, cioè cerco di evitarla accuratamente, perché tutte le volte ti fanno dire o ti chiedono delle cose... Mi ha trovato il gelato, ecco il gelato. Mi dai il gelato, va bene, sono già gelato di per me. Allora, si sente meglio? Allora, c'è una banalizzazione tremenda degli animali, questo è il grosso problema. Cioè gli animali sono banalizzati, sono delle entità completamente banalizzate. Cioè davanti a una tecnologia noi ci genuflettiamo, adoriamo realmente la tecnologia. E ormai abbiamo il sublime tecnologico, mentre le leopardi aveva il sublime nell'infinito, nella grandezza dell'universo, e per cui lì naufragava dolcemente in questo sublime pazzesco. Noi invece abbiamo il sublime tecnologico e quindi siamo assolutamente innamorati di tutto ciò che è la tecnologia. E naturalmente gli animali li diamo per scontati. Io quello che dico sempre, dico guardate che un computer, anche il più potente, non riesce a fare quello che fa un ribosoma, cioè un organulo cellulare, non un cane, un organulo di una cellula di un cane. Però questa tendenza, per cui quando vai in televisione si parla di cane e di gatti, ti metto la musichetta, a lei, le cagate, avanti. Avanti, e dice, ma non, la gente non si aspetta delle cose serie, delle cose. Dico, ma non è vero che la gente non si aspetta delle cose serie, siete voi che volete dargli delle cagate, volete propinargli dalla mattina alla sera delle cagate perché le volete instupidire, perché questo è. Io ho detto, ultimamente ho scritto su Facebook, Tacito aveva detto, no, in medio stat virtus, io metto, e in media stat merda. Perché tendenzialmente anche la trasmissione più intesa, un po' di merda ce la deve mettere sempre. Non c'è verso, non si sfugge da questa cosa. Allora noi dobbiamo innanzitutto partire dal valore della relazione con gli animali. Dobbiamo partire da questo. Dobbiamo avere l'orgoglio di parlare di animali, parlare di relazione con le altre specie. Cioè non dobbiamo sentirci quelli che amano gli animali, non amano gli esseri umani, tutte queste stronzate bisogna una volta per tutte saperle superare e con un atto di orgoglio. Per questo è fondamentale cambiare proprio la cultura, perché c'è questa tendenza invece al pietismo, povero cagnolino, povero gattino, la lacrimuccia, noi siamo diversi, noi e qua ci sentiamo la minoranza. No, dobbiamo andare nel mondo e rompere i coglioni al mondo, dirlo chiaramente, quello che sono loro i pazzi, non sono gli animalisti gli estremisti, sono loro estremisti, perché uno che adora un computer o un telefonino è un estremista. Molto di più di chi va a dare il proprio tempo in un canile e a aiutare tanti altri esseri viventi. Ecco, quindi capire questo, ecco, io non mi sento un estremismo, lo dico sinceramente, non mi sento un estremista, vivo l'estremismo di altri, vivo in una realtà che mi sembra estremista dall'altra parte, quindi dobbiamo avere un po' più di orgoglio nel dire che è importante invece la relazione con gli animali. Ora, lascerò la parola a Sonia che entrerà sul discorso dei gatti. Io penso che quando parliamo di relazione col cane e col gatto dobbiamo capire che abbiamo di fronte due animali profondamente diversi. Sono diversi non solo morfologicamente, non solo nei loro bisogni fisiologici, eccetera. Sono animali che hanno proprio un modo di interpretare la relazione in maniera differente. Stando al fatto che comunque parleremo di singolarità, perché chiunque l'ha sperimentato, che avere un gatto, due gatti, tre gatti è sempre soggetti completamente differenti, però il gatto vive la relazione in maniera molto diversa da quella del cane, perché per il cane la relazione è soprattutto fare delle cose con te, cioè questa è la mentalità di un cane. Io cerco di dirlo in maniera molto semplice, no? Il cane ti vive come compagno di azione. Cosa facciamo insieme? Quindi i cani sono felici nel momento in cui tu fai qualcosa con loro. Quindi non sono le cose, quelle sono i preamboli. Dice, è come apparecchiare la tavola. Dice, cosa si mangia? Niente. Come non si mangia niente? No? Perché è apparecchiata la tavola. Quindi il cane veramente cerca di uscire in questa realtà, cerca di essere, perché è lì che trova la sua soddisfazione e trova il suo equilibrio, capite? Perché però alla fine tu vedi le persone che dicono: ma il mio cane è ansioso, il mio cane è timoroso, il mio cane distrugge la casa, eccetera, e poi alla fine gli danno il Prozac, perché questo è. Cioè, perché gli danno il Prozac? Perché il Prozac è il classico sostituto dell'azione, perché la realtà è che tu devi bloccare un organismo che invece nel fare troverebbe il suo appagamento. Quindi il punto centrale è capire e far comprendere alle persone che vivere con un cane, perché si vive con un cane, non si possiede un cane, si possiede il televisore, il telefonino, la macchina, ma non si possiedono i soggetti. Vivere con un cane significa capire che lui ha bisogno di fare delle cose con te. Se questo è il punto, che lui ama l'azione con te. Perché in realtà io penso che non abbiamo addomesticato né il cane né il gatto, per due motivi diversi. Perché il gatto in realtà, secondo me, è domestico fino a un certo punto. Cioè il gatto vive con noi, ha una convivenza con noi, ma non è che noi l'abbiamo domato, quindi il gatto sì, vive con noi e gli sta bene di vivere con noi, si affeziona anche, dice: se ti voglio bene, sei un po' stronzo, però ti voglio, tutto sommato ti voglio bene, insomma. E il cane non ha subito un processo di domesticazione. Uomo e cane si sono incontrati e si sono cambiati vicendevolmente, perché quello che è avvenuto in un'epoca remotissima, nel paleolitico, altro che domus, non c'era neanche il villaggio, non c'era niente. Questi nomadi che giravano, che avevano, parliamo di 30.000 anni fa, 40.000 anni fa, cioè parliamo quindi di un'epoca almeno di 30.000 anni prima della rivoluzione del Neolitico. Quindi è un incontro, è una reciproca domesticazione, come dire, il lupo ci ha scelto e noi lo abbiamo scelto e piano piano ci siamo cambiati vicendevolmente e oggi siamo le due facce della stessa medaglia filogenetica. Quindi è importante capire che c'è qualcosa che va oltre la domus. Noi abbiamo questa idea della casa, anche quando parliamo di gatti. Il gatto dice: il gatto si affeziona alla casa. Il gatto sicuramente per lui la casa è un mondo importante, però il gatto non si limita alle pareti della casa, cioè si proietta al di fuori delle pareti della casa, anche se sta sempre dentro la casa, però magari dal vetro vedi e mi proietto anche là. Cioè il punto fondamentale è che noi molto spesso non ci rendiamo conto che i nostri animali vivono una realtà completamente diversa dalla nostra, completamente diversa. Noi abbiamo tutte le nostre, che ne so, l'antifurto, la porta blindata, la finestra, eccetera. E magari un animale dice: il vetro è una proiezione, quindi sono anche al di là io dal vetro. Vedo un gatto che passa di lì, mi incazzo, perché lì sono anch'io. E la mentalità, una mentalità forte di convivenza, di convivialità, che è la relazione che è soprattutto la relazione col gatto, è basata su un rispetto incredibile della sua privacy. Questa è una cosa fondamentale che le persone non capiscono. Un gatto, cioè, quanto più tu lo aiuti in questo processo di costruirsi i suoi spazi, di costruirsi le sue cose, eccetera, tanto più ti viene a cercare, perché dice: quanto sei bravo. Ma se tu gli stai addosso, il gatto se ne va via, perché sei un rompicoglioni, questo è. Quindi avete notato che i gatti si mettono in posti molto spesso irraggiungibili, si mettono sopra un mobile, si infilano dentro un armadio, poi chiudiamo e senti il gatto che fa quel classico verso da cosa succede, fatemi uscire da qua, che è un muu, come di muu. E è una relazione. Allora, da una parte col cane hai una relazione dove se tu non costruisci qualche cosa non avrai mai un cane felice, dall'altro hai una relazione che se tu non dai i suoi spazi, non dai la sua privacy, cioè il gatto non sarà mai felice, non sarà mai felice. Quindi al gatto non devi chiedere affetto, ok? È lui che te lo dà quando gli pare, quando ne ha voglia, e quanto meno ne hai bisogno, tanto più lui te ne dà, sostanzialmente. Almeno questa è la mia esperienza, perché poi c'è sempre il gatto che ti smentisce. Devo dire questo, che il punto fondamentale, quello che ci dovremmo chiedere, è quale società vogliamo per il nostro futuro. Cioè, questa è una domanda che secondo me è centrale, nel senso che io sento molto spesso dire che non ci sono più valori. Io non credo questo, penso in realtà che tutta l'animalismo, l'antispecismo, l'ambientalismo siano valori altissimi che dovremmo però rivendicare con più forza. Cioè, qui si tratta veramente di capire se vogliamo andare verso una società dove viviamo nella completa solitudine umana, in mezzo al cemento, in mezzo alla nostra cara tecnologia, o se invece vogliamo costruire un domani dove il nostro rapporto con gli animali, il nostro rapporto con l'ambiente, con la natura, possa continuare. Perché il punto fondamentale è questo, cioè noi giorno dopo giorno stiamo distruggendo spazi di verde, stiamo allontanando gli animali, stiamo vivendo questa assurda idea del non solo pulito, ma deve essere anche disinfettato. Non so se vedete quando le pubblicità dicono in tua cucina ci sono i microbi. Sì. Non devi solo pulire, devi anche disinfettare, casomai dovessi fare una colecistectomia in cucina, sei a posto, no? Nel coso della biancheria ci sono i microbi che si moltiplicano, poi vedi che gli passano, ne rimane uno, non si capisce perché, ma rimane uno solamente. Allora, non è più semplicemente un detersivo, ma è un presidio medico-chirurgico. Cazzo, c'è da comprare un presidio medico-chirurgico per pulire la cucina. Cioè ti spargi a mucchina dappertutto, ormai non so dove, la metti ovunque, dentro l'insalata, sulle mani, tocchi una roba a mucchina. Allora, il punto fondamentale è innanzitutto che se ti dà fastidio l'organico ti fai schifo da solo, no? Perché cioè, oggettivamente non è che tu sei fatto di metallo policromo e di silicio, tu sei organico, cioè tu sei fatto sostanzialmente di carne, di merda, di liquidi organici, e questo sei. Cioè, se uno inizia ad avere schifo di queste cose, si fa schifo da solo. Perché... E allora, il punto è, cos'è un organismo? Innanzitutto dovremmo chiedercelo. Cioè, un organismo è qualcosa che più lo esercito e più si sviluppa e più si rafforza. Cioè non è che se tu stai costantemente sdraiato avrai dei muscoli efficienti. No, per fare avere dei muscoli efficienti devi fare esercizio fisico, devi fare attività, e così il tuo sistema immunitario. Se il tuo sistema immunitario, se non lo fai mai esercitare, è chiaro che si indebolisce. È ovvio, qualunque aspetto, come la memoria. Uno dice, ah, ma tu hai memoria. Dico, guarda, io la esercito la memoria. Cioè, non è che è venuto Zeus e mi ha instillato la memoria e sono stato fortunato in questo. Se tu anche per andare a cagare devi mettere il posta, ricordarsi di andare a cagare, cioè non è che puoi avere la memoria dei cantori dell'Iliade e dell'Odissea, ovviamente. Perché cioè, non eserciti mai attività cognitive, e paradossalmente non eserciti neanche al tuo cane, agli animali che stai intorno, perché proprio li togli costantemente. Perché quando parlavo di quei giochini lì, quel giochino lì, la prima volta può anche essere interessante, la seconda volta è una ripetizione. Sarebbe come dire, io dalla mattina alla sera apro la porta di casa, cosa stai facendo? Attivazione cognitiva. No, sto facendo fissità cognitiva, che è esattamente il contrario. E non lavori sulle tue caratteristiche fisiche. Cioè, quando io dico, molti dei sistemi funzionano, parola difficile, ma guardate, come il termostato, per feedback. Cioè, il termostato produce calore quando l'acqua si abbassa la temperatura, si accende e produce calore. Quando l'acqua raggiunge una certa temperatura, dà feedback negativo e smette di produrre calore. Ora, se tu nella vaschetta continui a mettere acqua calda, il tuo termostato non si accenderà mai. Ora, col termostato nessun problema, ma se lo fai col tuo organismo, cioè se tu lo inondi del prodotto che il tuo organismo dovrebbe produrre, il tuo organismo smette di produrre quel prodotto. Quindi il modo migliore per andare fuori sistema di appagamento è quello di prendere il Prozac. È il modo migliore, perché la serotonina che dovrebbe produrre il tuo corpo ti viene fornita dall'esterno e tu diventi tossicodipendente e fai diventare tossicodipendente a tutti quelli che la somministri. Ma non ci vuole molto per capire questo. Non ci vuole molto. Oltretutto poi abbiamo il problema del mitridatismo, per cui dovrai aumentare sempre di più le dosi e arriverà il momento in cui la pagherai. La pagherai questa cosa. Allora, io mi chiedo, che mondo vogliamo? Questo è il punto. Qui non si tratta solamente dei gatti, dei cani, eccetera. E non mi parla male degli anni 70, che non erano bellissimi, c'erano i Jet Total. Allora, no, gli anni 70, no, beh, è un po' l'età. Il punto centrale che ci dobbiamo chiedere, ma veramente vogliamo un mondo dove non c'è più un giardino, non c'è più un parco, dove non ci sono alberi, dove non ci sono più... Vogliamo veramente questo? Questo è il punto che dovremmo chiederci. Per cui si tratta veramente di avere un'idea per il nostro futuro, avere un'idea di una città. E una città non è semplicemente il giardino confinato. Innanzitutto dovrebbe essere digitazione di verde, non isole di verde, perché se è un'isola di verde significa che tutto intorno non è percorribile, quindi dovresti avere un'idea di digitazione di verde all'interno della città. Poi dovresti capire, per esempio, che mantenere i fiori spontanei è fondamentale. Inutile, dici io voglio le farfalle, sì, ma se non ci sono i fiori spontanei non è che ci sono le farfalle, sarebbe come pretendere di avere le balene senza il krill, cioè capite, cioè, se hai minuto di krill è chiaro che la balena se non c'è il krill non, cosa va a fare un giro per l'oceano così, cioè. Allora il punto fondamentale è che se noi togliamo i fiori spontanei, distruggiamo, non possiamo avere certamente le farfalle, non possiamo certamente avere gli uccelli. Se noi invece di piantare delle essenze autoctone mettiamo, che ne so, delle piante che non c'entrano niente con il nostro territorio, andiamo a creare dei grossi scompensi per quanto riguarda gli uccelli che nidificano, gli insetti e quant'altro. Le cataste di legna sono fondamentali, perché sono un rifugio per... Cioè uno dice, mi piacciono le coccinelle, che belle! E le coccinelle si rifugiano dentro le cataste di legna, cercano dei ma non solo le coccinelle, le stesse xilocope, le stesse mantidi religiose e quant'altro. Cioè avere un'idea di una città viva, organica, non una città morta, non una città che non ha più niente della natura, perché è un'ideologia quella antropocentrica, è un'ideologia. Cioè è l'idea che gli animali vanno sterminati. È un'idea dove all'inizio tu vuoi che il gatto sia confinato, che il cane sia sempre tenuto al guinzaglio, non vuoi nemmeno vederlo, e che schifo. Parti da questo e poi piano piano l'intolleranza aumenta. Non è che se tu la eserciti l'intolleranza diminuisce, sarebbe come esercitare la gelosia del partner e pensare che un giorno o l'altro il partner non sia geloso. Cioè più tu eserciti la sua gelosia, più diventerà geloso. Sarebbe come se uno fa esercizio col bicipite e pensare che gli cresca il deltoide. Cioè eserciti il bicipite e ti cresce il bicipite. Allora il punto fondamentale è questo. Noi stiamo andando verso una società che odia gli animali, che apparentemente li ama, ma vuole trasformare gli animali in oggetti. Lui dice, adesso gli animali li pensano come dei bambini. Non è vero che li pensano come dei bambini, li pensano come dei peluche. Cioè l'animale è passato realmente dall'antropomorfismo al, che ne so, al peluchemorfismo. Cioè è diventato un oggetto che deve essere completamente sterilizzato, gli devi togliere tutta la sua animalità. Ma a mio avviso siamo noi che dobbiamo recuperare la nostra animalità. Cioè siamo noi che abbiamo perduto questo che è invece fondamentale per il benessere. Perché guardate, la nostra soggettività nasce dai nostri desideri, non dai nostri, dalla nostra razionalità. La razionalità è una sovrastruttura, serve a giustificare quello che noi già vogliamo. In realtà i fondamenti della soggettività sono le strutture motivazionali, cioè cosa vogliamo fare e che cosa vogliamo fare. I nostri desideri non sono cose, non sono oggetti. Questo deve essere chiaro, perché il punto fondamentale è che ce lo fanno credere, soprattutto durante il Natale. Sono oggetti, il tuo desiderio è un oggetto, vai nel negozio a comprare. Allora, i desideri sono azioni, non sono oggetti. Desiderio è un verbo, fare una certa cosa, esprimere un determinato comportamento. Il target è solo una scusa, è come dire il gatto ama la pallina, no, il gatto ama mettere in atto un comportamento predatorio, quello desidera. La pallina è una scusa. Allora, iniziare a capire che le emozioni e le motivazioni sono al centro della nostra soggettività, e quindi la nostra soggettività ha molto a che fare con la nostra animalità. La nostra soggettività fluttua all'interno della nostra animalità. Quindi recuperare questa dimensione, che è una dimensione di soddisfazione, di felicità vera, non falsa. Ecco, come quei giochini sono dei surrogati. Noi veramente ci costruiamo una vita di surrogati, e invece dovremmo recuperare una vita autentica, dove al limite il surrogato può essere qualche volta, ma noi qui invece viviamo solo di surrogati, solo costantemente di surrogati, solo che i processi di surrogazione sono processi che creano una insoddisfazione. La stragrande maggioranza delle persone sono insoddisfatte. Da questo punto dobbiamo rendercene conto, ma non perché l'essere umano è di per sé insoddisfatto, ma perché hanno costruito una società che è basata sull'insoddisfazione, è fondata sull'insoddisfazione. Allora, per me è fondamentale la presenza degli animali all'interno di una città, è fondamentale il lavoro che dobbiamo fare per scalfire questa mentalità, per portarglieli agli animali, per portarli anche laddove ci sono persone che li rifiutano, cambiare questa mentalità, perché altrimenti se fai costantemente una, come dire, politica di difesa, ti troverai che sarai sempre più confinato in una riserva, e fuori dalla riserva la mentalità si auto-implementerà in quel senso. Viceversa, tu devi cambiare, devi modificare. Allora, la città è un ecosistema, è sempre stato un ecosistema. Cioè, nella città esistono moltissime specie, e queste specie raggiungono degli equilibri tra di loro. Quando mi dicono, ma i piccioni portano le malattie, dico, scusate, i piccioni innanzitutto sottraggono una quantità di cibo, ok? Perché l'essere umano, sapete perché ha chiamato tanti animali intorno a sé? Perché produce una montagna di sporcizia. Molto probabilmente anche il cane è arrivato da noi, forse dei lupi, attratti dal fatto che l'uomo fa una montagna di sporco tra i rimasugli, tra la merda. Cioè, infatti i cani amano la merda umana proprio perché l'umano è un grande produttore di sporcizia. Ora, gli animali hanno diminuito drasticamente sempre questa specie. E tutte le volte che l'uomo ha fatto delle battaglie contro una specie, poi ne ha pagato le conseguenze. Pensate alle battaglie che sono state fatte con i gatti, e poi ci siamo presi la peste. Cioè, esistono dei sistemi di equilibrio ecologico all'interno degli ambienti, che quanto più tu rafforzi un ambiente, quanto più rafforzi tutta la catena trofica di un ecosistema, tanto più quell'ambiente ammortizzerà. Quanto più tu lo impoverisci, tanto più il sistema invece prenderà delle derive. Quindi tutti gli animali presenti nell'ecosistema urbano sono utili, perché ciascuna specie contiene lo sviluppo delle altre. E quindi se tu rafforzi e se tu arricchisci un ambiente, non avrai mai delle impennate e delle situazioni di discrasia all'interno dell'ecosistema. Ora, per far questo è necessario che la politica se ne faccia parte integrante. E perché se ne faccia parte integrante è necessario aumentare la quantità di persone che sono sensibili su questa cosa. Cioè non c'è verso, in un mondo come il nostro il numero fa. Se tu hai un'enorme quantità di persone che sono sensibili e che quindi spingono determinati processi, allora tu otterrai determinati risultati. Quindi è necessario, uno, aumentare la sensibilità delle persone, non aver paura di fare discorsi anche forti, non averne paura. Cercare di convincere le persone, cercare di aiutare le persone a capire queste cose, quindi non colpevolizzare le persone, ma cercare di aiutarle a comprendere queste cose. E senza dubbio cercare di fare in modo che ci sia una sensibilità generale e ci sia un'unione su determinate cose. Perché quello che il grosso problema, vedete, di molti movimenti animalisti, zoofili, antispecisti, ambientalisti, è quello di pensarsi un'anima bella. E se io mi penso un'anima bella, io giudico gli altri. Cioè c'è questa tendenza all'arroganza. Perché gli animalisti litigano costantemente tra di loro? Cioè ce lo dobbiamo chiedere questo. Dico, sono una minoranza incredibile, è una minoranza che litiga costantemente, per cui si frammenta in 300.000 schegge e naturalmente si fanno delle guerre trasversali pazzesche. Dico, ma perché? Quando la cosa più importante è l'unione. Dopodiché l'unione non significa che la dobbiamo pensare tutti allo stesso modo, ma dobbiamo tutti avere consapevolezza che davanti a noi abbiamo un progetto molto ampio, molto difficile, molto complesso. Cioè avere questa percezione. Dopodiché la dialettica, ma certo che ci deve essere, ma io, se tutti siamo in questa direzione, se anche la pensi in maniera diversa da me, tu non sei il mio nemico. Tu non sei il mio nemico, tu sei quello che magari mi aiuta a portare a maggiore consapevolezza quello che penso, a cambiare quello che penso o a rafforzare quello che penso. Questo è il valore della dialettica, della multiformità all'interno di un movimento. Ma quello che non deve essere è assolutamente è la frammentazione, perché questo ci rende più deboli, perché come vediamo sempre chi ha un'altra visione è estremamente unito. E le vince tutte le battaglie, le sta vincendo tutte. Noi stiamo vincendo delle piccole cose, confronto a dove sta andando la realtà. Io non voglio essere pessimista, io dico solamente che però bisogna avere uno scatto di orgoglio, un cambiamento forte, perché altrimenti dagli anni 70 ad oggi c'è stato un peggioramento grave della situazione. Cioè, quando mi dicono, vabbè, ma oggi c'è molto più gente che è vegetariana, dico sì, è una piccola, piccola vittoria di fronte però a un mondo che sta andando alla deriva. Cioè, è veramente qualcosa di minimo confronto ai cambiamenti devastanti che sono arrivati non solo nella società, ma proprio nella nostra cultura. Noi ormai accettiamo supinamente di vivere una vita di merda. Cioè noi ormai abbiamo accettato questa cosa, ci hanno come dire esautorati dalla nostra stessa vita, ce l'hanno portata via, ci hanno rinchiuso dentro una vita fittizia e abbiamo rinchiuso in questa vita fittizia anche gli animali che ci hanno seguito, quindi cani e gatti, gli altri animali li sterminiamo, cioè c'è uno sterminio, ormai trovare altri animali è praticamente, cioè ogni anno fanno ecatombe di colombi, spargono veleno dappertutto. Non è che voglio fare del pessimismo, dico semplicemente che è necessario un cambio di rotta, è assolutamente indispensabile, ma questo cambio di rotta si riesce a fare solamente se dall'altra parte hai delle persone che sono sensibili, ma anche che capiscono il loro ruolo, che lo capiscono profondamente e che mandino a quel paese i personalismi, perché è questo è il punto, perché finché tu segui i tuoi personalismi non sei in grado di portare avanti nessuna battaglia. Allora, pensiamo a una città diversa, ma cerchiamo di aumentare, cerchiamo di stare uniti, perché il compito è veramente grande, perché chiunque pensa alle future generazioni non può che rimanere, io che ho dei figli e in generale quando vedo i bambini penso che mondo gli lasciamo, che mondo lasciamo alle future generazioni. E molto probabilmente i nostri figli o i figli dei nostri figli ci malediranno e avranno ragione. Questo è il punto, perché stiamo distruggendo veramente il loro futuro. Grazie.